sono le 7 spaccate di un lunedì 17 di settembre, cupo più che mai, da una Milano piovosa vi arriva l'augurio di una buona giornata dalla voce fresca, sveglia, pimpante dell'Ariele, pronto come ogni santissima mattina a condurre al meglio delle mie possibilità queste due ore di diretta mattutina sulle frequenze di Rock FM, che noi della redazione abbiamo voluto chiamare Pane, Burro e Rock and Roll, citando una celebre canzone di Ian Dury che originariamente suonava Sex, Drugs and Rock and Roll, ma di mattina presto diventa così: Pane, Burro e Rock and Roll. Ah no? La tua colazione roll, la meglio in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Tracutra, cutra, cutra. Tracutra, trutu, tracutra. E via! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. La carica, l'energia, la spinta che ci vuole la vostra giornata. Buongiorno al mio regista Spadino dall'altra parte del vetro, tenterà di muovere la musica, di muovere i suoni, di giostrare come solo lui sa fare queste dirette mattutine. Roberto Friccantoni sarà il regalo che anche quest'oggi vi faremo e ci faremo direttamente da Bologna, il nostro rocker di riferimento. Spesso e volentieri vi ricordiamo quanto le nostre apparecchiature in uso qui sulle frequenze di Rock FM siano rock da contratto anche loro. Questo lo ricordiamo il più delle volte quando si inceppano. Mentre questa mattina, Spadino, doveroso, dobbiamo notare come questa fredda macchina della programmazione, questo incrocio di 01100000, quest'oggi si capiva come 01, cioè il linguaggio binario. Ma quante ne sa l'Ariele, quante ne sa alle 7 del mattino, capito? Questo freddo linguaggio binario quest'oggi, come se avesse annusato l'atmosfera qui da Via Locatelli, hai capito? Propone di iniziare con una Let It Rain, Mr. Slow Hand Clapton. Non avrei previsto miglior modo per iniziare la giornata. Lasciate che piova, a voi, che schevene fot. Rain is falling through the mist of sorrow that surrounded me. The sun could never fall away. The bliss that lays around me. Let it rain, let it rain. Let your love rain down on me. Let it rain. Thank you. Burro Rock and Roll, l'unica trasmissione radiofonica che vi concede di fare gli assoli con la bocca, che detta così suona male, in realtà siete liberi di far finta di suonare insieme a Clapton. Adesso c'è la chiusura, la farei. Potete anche chiuderla con la batteria poi. 7-8 minuti primi, hai capito che inizio, Spadino? Così mi piace, stiamo sul pezzo. Almeno qui a Milano piove. Solitamente in queste ore, in questi minuti, tutte le altre frequenze radiofoniche danno radiogiornali, aggiornamenti, sono lì sul fiato sul collo per dare la news prima di tutti gli altri, cosa che noi qui a Rock FM non facciamo. Siamo usciti da questa gara delle news, anche perché l'avremmo persa proprio prima ancora di partire, quindi da veri rocker abbiamo detto: sai che c'è, che noi facciamo un'altra cosa. Però in giornate come queste possiamo tentare di essere utili anche noi, Spadino. Io credo di poter dare a queste due ore radiofoniche un senso nel dire a coloro che aprono gli occhietti solo in questo momento: guardate che fuori sta piovendo, quindi vestitevi, mi sembra carina come cosa, vestitevi un po' più pesantini, non troppo, dai, facciamo finta che ancora estate, prendete un ombrellino, se ce l'avete, oppure un bel kiwi con cappuccio che fa tanto, oppure un poncio, il poncio fa rocchissimo. Quest'oggi io ho preso l'ombrello, ma se avessi avuto un poncio giallo, quelli da marinai, sicuramente l'avrei indossato. Adoro andare in giro col poncio, in mezzo alle strade dove piove. Per voi invece in macchina, voi furbacchioni che vi piace andare a tutta birra sulle pozzanghere per bagnare i passanti, beh, almeno nella città di Milano quest'oggi avrete grosse soddisfazioni. Fate attenzione al classico fenomeno dell'aquaplaning, quindi non fate troppo gli stupidi, perché poi bagnate quello ma andate a sbattere contro il palo della luce e non è divertente, iniziereste la settimana in maniera terribile. Vi ricordo le coordinate per ringraziare questi servizi radiofonici o per interagire con noi: 335 100 77 77. Che poi non si dica che Rock FM non è una radio di servizio, no? Io nel mio piccolo cerco di dare queste indicazioni. Abbiamo già i primi sms che giacciono nel nostro computer di destra. Andrò a leggerli tra pochissimo. Loving Spoonful. A proposito di estate, estate in città. Summer in the City. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a match head. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city. Cool town, even in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. You know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city,

duro come ogni settimana riprendere il lavoro. Il lunedì una delle giornate più difficili di sempre, ancor più ma dura. Quali difficili, ma quale duro. Aspetti, se si inizia alla grande, lei non alla ha grande ancora guardato esattamente il calendario, perché oggi, e la conosco, accidenti, la prenderà male, è lunedì 17. Accidenti, DJ Ari, e lei ha ragione, mi costa ammetterlo, ma è proprio così. Oggi è il 17. È esattamente il 17. Le va in un giorno così gramo di farci l'almanacco del giorno che fu? Assolutamente no. No, ma come, Fre? Guardi che la paghiamo. Quotidianamente gli chiediamo, vuole fare l'almanacco del giorno? E io quotidianamente vi rispondo d'accordo. No, lei deve dire di no, da contratto. È il tormentone di pane, burro e rock and roll. Ah, fa aumentare l'audience? Assolutamente. Allora sì, mi rifiuto senz'altro di fare l'almanacco di pane, burro e rock and roll. Iniziamo? Assolutamente sì, iniziamo al volo, anche perché il 17 settembre del 1907, sa cosa le faccio? Colpo di scena, data fatidica per tutti i rocchettari del mondo. E soprattutto per tutti i biker rocchettari del mondo, perché nel 1907... Infatti, un vero rocchettaro che si rispetti ha sempre una bike. Il 17 settembre... creiamo un po' di suspense. Viene ufficialmente fondata la Harley Davidson Motor Company. Come dice lei, Harley non l'ha mai detto veramente nessuno. Passiamo a una notizia invece tragica, datata 17 settembre ma 1908. Era proprio un 17 settembre quando il tenente Thomas Selfridge si schianta, ahimè, con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa così la prima vittima del volo aereo. Onore e gloria al buon tenente Selfridge. E passiamo a una notizia decisamente più rock, datata 1967. Quei mattacchioni dei Doors. Doors. Le porte della percezione. Le porte della percezione, molto bene, da un famosissimo libro. Sono invitati a Ed Sullivan Show per presentare People Are Strange e la famosissima Light My Fire. Ho sospetto che questo fosse un 45 giri, di cui venne poi chiesta la modifica al testo. Mi riferisco a Light My Fire, accendi il mio fuoco, è la metafora rock. Accendi. Senti cosa stava parlando. Chissà cosa vuol dire con accendi e chissà cosa vorrà dire con fuoco. Mio è abbastanza scontato. Viene chiesto alla band di epurare alcune parti del testo e Jim Morrison risponde picche come avrebbe risposto Frick Antoni. Esattamente. E le ricordo che in quel di Bologna, a proposito di storia del rock, ci fu una band, forse però gliel'ho già detto. Chi? Ad ogni modo furono i Judas. I nemici giurati dei Pooh. Aia, dei Pooh. Non lo dica così, Frick. I Judas vennero invitati dal grande Mike Bongiorno. Oh là là. Colpo di scena, sì. Ogni tanto mi esce, basta dire Mike Bongiorno e ogni tanto mi esce l'alter ego. Fa audience, sa? Piace molto l'imitazione di Mike Bongiorno. Speriamo, alzi l'audience, un bel applauso all'audience, Che successe ai Judas invitati da Mike Bongiorno a un cantagiro? I Judas vennero invitati ad accorciare la lunghezza dei loro capelli dal grande Mike, che in questo caso chissà perché, insomma, fece questo scivolone. Un americano come lui. Un americano come lui, così democratico, esatto. Profondamente. E i Judas dissero? No, oh. Non ci stiamo, non andiamo al cantagiro. Viva i Judas! E fu anche in quell'occasione Marteau, il mitico cantante, a dire no. Sono sempre i frontman che poi si prendono questa responsabilità. Ed è col frontman Frick Antoni che proseguiamo l'almanacco di quest'oggi, scoprendo che il 17 settembre del 1976 lo Space Shuttle venne finalmente per la prima volta mostrato al pubblico. Chissà com'è, magari era sotto un telone. Io me lo immagino sotto un telone e un enorme telone e un agente 3, 2, 1, vroom, e tirarono via il telone. Questo è lo Space Shuttle, scala 1-1. Alla faccia, deve essere stata una cosa incredibile. Chiudiamo in bellezza, via. Ah, sì, chiudiamo in bellezza. La bella e brava Vanessa Williams. Chi è? mai sentita. È una signorina afroamericana, ah, la prima signorina afroamericana a diventare Miss America, ah, nel 1983, il 17 settembre. La perla nera dell'America. Yes. Chiusura, yes, in bellezza. È stato straordinario. Da oggi il rock lo ascolti su una sola radio. Oh, retrogradi! Da oggi pane, burro e rock and roll